24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Toda gioia, toda bellezza. Sono le 6:33 minuti. Forza Paola Saluzzi, è il momento di sostenere il Brasile. Balla con noi. Assolutamente. Dai. Mai come in questo momento. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È stato un disastro. Però toda gioia, toda bellezza. Sosteniamo chi inciampa e cade. Ecco, perché veramente ecco. Ieri è stato terribile vedere che una squadra così, che un paese così si trovasse di fronte a un disastro del genere. Toda gioia, toda bellezza. Ve la vedete Paola Saluzzi subito scatenata, dai Paola. Assolutamente, ma si può ballare di prima mattina, è un grande esercizio. Chiaro. Non so quanti balleranno in Brasile. Aia. Anche se forse l'uscita terribile di Neymar aveva già preparato. Sentite, e Thiago Silva squalificato. Sentite Paola Saluzzi come si interessa. Com'è? Che devo fare? Thiago Silva te l'eri perso, Thiago Silva squalificato, te l'eri perso. Sì, oh, capitano. Io mi ero fermata a Neymar. Mi sembra giusto. Comunque, via, forza. Siamo tutti brasiliani, siamo tutti amici del Brasile. Il Brasile è la patria del calcio, il Brasile è il calcio. Dunque, è giusto così. Oggi titolo della Gazzetta, toda tristezza. È questa la situazione, cara Paola. Voglio salutare Miriam Lucchetti che domani se ne va in... No, non è domani. Ah no, c'è un'altra settimana. Ah, domani è giovedì. Porca miseria, pensavo che domani fosse venerdì. No, domani è giovedì. Dopo domani se ne va in ferie. Saluto anche l'alpino Peter Bescapè che settimana prossima se ne va in ferie. E se lo meritano, sì. Alle 6:35 minuti con questo inno al Brasile. Dai! Apriamo il Parlamento. Saluto anche il direttore Luca Dini. Ciao. Ieri Luca Dini twittava tutto orgoglioso contro la Germania, contro il Brasile, la Germania. Non contro il Brasile. Dai, l'Europa, Europa rules. A un certo punto hai scritto, guarda che ti controlliamo adesso, Europa rules, sì, perché insomma, vabbè, è vero, il Brasile è la terra del calcio, anche l'Europa è la terra del calcio. Lo so, ecco, vedi, l'orgoglio europeo. Adesso ho scritto, a un certo punto adesso toccherà l'Argentina. Attenzione, che l'Argentina ha un tifoso particolare. Non mi piace il tifo anti-brasiliano dell'Argentina. Non ti piace, ma bisognerebbe recuperare quel telecronista argentino che ha detto noi abbiamo Messi e il Vaticano dalla nostra, voi avete Copacabana, Jobim, il Pau de Açúcar, ma noi abbiamo il Papa. Questo è... Vabbè, un po' balengo, diciamolo, un po' balengo. Però insomma lo recuperiamo, vediamo se lo recuperiamo ve lo mandiamo dopo un gol di Messi che ha segnato all'Iran al 90esimo, è stato un gol all'ultimo minuto e questo telecronista ha detto questa cosa e vabbè, niente, dai, lo recupereremo dopo. Che dobbiamo dire? Allora, beh, la partita l'avete vista ovviamente. No. Come no? Io ero a cena a casa di miei deliziosi amici a mangiare un tacchino straordinariamente buono. Capito, ma tutto sto casino, non hai visto niente? No. Neymar? No. Toda gioia, toda televisa o spenta. Niente, e poi stavi a mangiare tacchino. Ah, sì? La mia amica Maria Celeste, guarda che bel nome che ha. Maria Celeste, sono adorata. Come fa il tacchino Maria Celeste? Ce lo ma in maniera straordinaria, ha messo dentro le carotine gratinate, la verdura gratinata, ha fatto un sughetto straordinario, sì. È una mamma strepitosa, nonché ragazza strepitosa, e ragazzi, invece di soffrire col Brasile che veniva torturato dalla Germania, io mangiavo il tacchino. Il tacchino di Maria Celeste, mi sembra giusto. Tu Luca Dini l'hai vista almeno la partita? Sì. Hai visto più che il tacchino, quelli rosolati con come un come i tacchini. Ma pensa, ecco, senti qua, l'abbiamo recuperato, eh. Questo era un gol di Messi. Senti tu che dici che gli argentini sono anti-brasiliani, eh? A un certo punto il telecronista dice: voi brasiliani non siete nulla, avete Copacabana, Jobim, ma noi abbiamo il Papa oltre a Messi, eh. Senti, ma adesso si scatena. Prima deve dire 50 volte gol, perché sennò non sono contenti. Quindi. Sì, abbiamo capito. Gol, gol, gol, va bene. Abbiamo capito. Senti, eh? Senti. Gol, carajo, gol! Te lo grito a vos! Te lo grito a vos! A vos de nuevo! A vos de nuevo che stai abajo! È un ten un papa! È un ten un papa! Vos non tem nada! Vos te in Pelé! Vos te in pan d'azúcar! Capito Luca, voi avete Pelé, ma noi abbiamo il Vaticano, il Papa abbiamo, Francisco. Pensa che io invece ho pronosticato la vittoria dell'Argentina, finale, certo avevo detto in finale col Brasile, quindi già qualcosa sbagliato, ma tengo il punto. Secondo te invece vincerà l'Olanda, Luca, oggi? No, cioè, non è il pronostico, chiaramente. Ah, è una speranza, una speranza. Ma ripeto, non per l'Argentina, per carità, una grandissima squadra. Non mi sono piaciuti certi eccessi. Gli eccessi, vabbè. No. Che... Beh, anche e devo dire che hanno sventolato. Chiedo scusa. No, di Luca. Che cioè, la Germania ieri sera avrebbe vinto con Neymar, Thiago Silva e chiunque dentro. Cioè, avrebbe vinto e basta. A un certo punto Luca Dini, preso da una pazzia improvvisa, ieri ha detto: contro questo Brasile avrebbe vinto anche l'Italia! L'Italia, ti rendi conto? Luca, vabbè, l'Italia! Però guarda che... Sì, l'Italia. La difesa lì era terribile. Non lo so, io non so che cosa sia successo. L'Italia, Paola Saluzzi, ti rendi conto? Si è fatto prendere un po' la mano ieri. Probabilmente non è il Brasile che siamo abituati a vedere, insomma, ecco, questo voglio dire, da quello che ho potuto vedere dopo, tornando a casa, registrato chiaramente tutto, non è stato esattamente il Brasile a cui siamo abituati. No, parlavo dei tifosi che l'altro giorno con una spina dorsale di plastica inneggiavano a quanto successo a Neymar, insomma, vabbè, e poi i tifosi sono tifosi, alcuni soggetti sono un po' deficienti, però va bene così. Vabbè. Sì, forse avremmo vinto anche noi. Sull'Italia c'è tutto un altro capitolo da aprire. Veramente su Prandelli si sta scatenando il massimo del minimo dell'invidia e della bassezza di certa gente. Cioè, è un signore che ha perso, si è dimesso e stracorrettamente è stato chiamato altrove e stracorrettamente ha firmato. E ricordo a chi parla di elaborazione del lutto che Prandelli si è fermato dal giocare a pallone perché ha assistito la moglie finché non le ha chiuso gli occhi, quindi come dire, sto assistendo a delle scene di cattivo gusto verbale, scritto e altro. L'elaborazione del lutto è proprio una carognata. Sì. Proprio una porcata, lo posso dire. Sì, perché l'elaborazione uomo... del lutto a Prandelli che ha perso la moglie, effettivamente. Un attimo, perché proprio l'ha persa, come succede purtroppo tantissime volte a tantissime altre persone, ma ha avuto una dignità e una forza e una signorilità anche in quella situazione. Zitti un po'. Poi se rode il fegato, grattate. Questo è vero, questo è vero. Vabbè, sono 10 minuti che stiamo parlando dei mondiali. Pensate di essere a tutto il calcio minuto per minuto? Ma assolutamente, ma forse è veramente quello che vorremmo fare. Ecco, veramente, chi può dirlo? Allora, c'è un messaggio di un ascoltatore che scrive: Paola, che delusione, il tacchino. Il tacchino, effettivamente, vabbè, insomma, ma non lo so, magari, ma per carità, Maria Celeste farà un tacchino meraviglioso. Ma penso... sono dei miei amici splendidi. Ma no, ma non lo mettiamo in dubbio, insomma, il tacchino, no, pensavamo, sì, non so, un qualcosa di un po' più sugoso, una pasta, la matriciana, una no, gricia, no, non lo so. Ma se mangiate il tacchino di Maria Celeste, vi leccate i baffi come i gatti, no, fino al mattino. Viva il tacchino, viva il tacchino. Allora, vi volevo stuzzicare su questo. Caro Luca Dini, il fatto che Francesca Pascale prenda la tessera dell'Arcigay, ieri è andata a Napoli, eccetera, che considerazioni ti fa fare? Oggi ci sono una serie di interviste, c'è un'apertura, qualcuno dice che Berlusconi mugugni per questa cosa, però lo stesso Berlusconi è aperto su questa tematica. Chi è? C'è una destra liberale che si sta aprendo a queste tematiche in vista di settembre? Diciamo che aprirsi va sempre bene, farlo dopo che hai preso una batosta elettorale sa tanto di, insomma, di disperazione. Sarebbe bello che l'avessero fatto un po' prima, visto che hanno detto di tutto contro chi voleva aprire, quindi boh, insomma, a me fa un po' ridere. Come la, è un po' come, diciamo, la, i diritti degli animali scoperti in zona Cesarini, per carità, tutto va bene. Ah, ecco, bene, attenzione, però... attenzione, insinui il dubbio della mossa, come beh, dire. Non è un dubbio, sai, dopo aver preso meno del 17%, più che un dubbio è la certezza. La certezza della mossa per cercare di recuperare un po' di consensi, adesso tira il vento da quella parte, quindi così. Cara Paola Saluzzi, hai visto questa lettura un po' corrosiva di Luca Dini alle 6:44 del mattino? Correttamente, come il nostro dir sa fare. Vedremo la prova dei fatti. Ora è questa presa di posizione in sede poi di campagna elettorale, di altre decisioni, di voti, di altre decisioni, vedremo che cosa succederà. No, io mi ricordo il Family Day, dai. Che è successo? No, questa non me la ricordo. No, ah, certo, Family Day. Tutti lì a sfilare. Ma si cambia idea, si può, almeno la sensazione è questa, si è cambiata idea, oppure no? Tu dici è una questione proprio... No, secondo me è opportunismo. È opportunismo. Basta, ha sancito Paola. Ho voluto vedere la faccia di Giovanardi. Di Giovanardi, anche se di Giovanardi è nuovo centrodestra, non è più ovviamente Forza Italia, però così. Ma che fede ha fatto Giovanardi? Ah, non lo inviti, no, più Giovanardi? No, assolutamente, invece viene spesso, noto cantante di rap, forse sta producendo un nuovo rap, Giovanardi. Sta producendo un nuovo rap, ma lo aspettiamo per questo nuovo, verrebbe da dire, nuovo 33 giri, si dice una volta, no, ecco, così, appena vuole noi siamo lì pronti a lanciare, ecco, è subito partito il rap di Giovanardi, ragazzi. L'alpino. Annaggia, ragazzi, questo rap di Giovanardi non... Il ragazzo che mi ascolti, non ti far fregare, la droga non fa bene, la droga ti fa male. Non so se è più brutta la voce o la base. È l'unico rapper che non va a tempo. Sì, esatto, a parte che non va a tempo, non ha ritmo. Dice qualche rima baciata, ma non lo so, forse la base è la cosa più orrida, ancora più orrida. Andiamo con questo rap di Giovanardi. No, andiamo con questo rap di Giovanardi ad ascoltare il traffico e ci accompagni al traffico. Leggere non esiste. 24 mattino. Dai una svolta alla tua vita con Alessandro Milan. Ogni settimana può essere decisiva. Mi è insopportabile Matteo Renzi, non ne posso più di vederlo e di sentirlo. Toglietelo. E poi la 7 è una cosa pietosa, fa di tutto per metterlo in risalto e peggiora la situazione, perché più lo conosciamo e meno lo amiamo. Milan, con quella frangetta mi fai un po' ridere, ti sto vedendo in televisione. Tu sei bravo, non hai bisogno di conciarti così. Pettinati in modo normale, da uomo. Ciao. Vota Antonia. Si diceva prima, adesso si dice vota Renzi. Buongiorno caro Milan, sono Maila, un po' fioca. Ma volevo dirti, la sai la differenza tra il Partito Comunista e Renzi? è come se una bicicletta e un drone. Io dico viva il PDR, cioè partito di Renzi. Oh Fiorentina, bell'uguaglione, oh Fiorentina, tutta l'Italia fa innamora, e belle facce, e belle care. E tassatore, oh Fiorentina, quanto tasse che ci metterà. Oh Milan, mi è venuta un'idea, ma perché non ci mettiamo Paola Saluzzi a fare il commissario tecnico della nazionale? Eh? Che ne pensi? Magari così i giocatori, quei pappamolla dei giocatori, vedendosela in panchina si ringalluzziscono un pochino e incominciano a correre un po' di più. Non ci avevo pensato, potrebbe essere una soluzione. Scusate, sono queste cose inattese che... Voi siete dei benefattori di prima mattina, cioè uno fa così, si incarica. Io commissario della nazionale. Paola Saluzzi, mamma commissario mia. Tecnico della nazionale, c'è il posto libero adesso. Così si ringalluzzi, hai capito Lucadini? Si ringalluzziscono. la vedono in panchina e si ringalluzziscono. Vabbè, ma qua abbiamo. Ma chi osa disquisire sulla tua frangetta? Perché? Sulla mia frangetta? Non lo so, ma poi è tutto un profluvio contro Renzi. Adesso è partito dopo il 40%. La gente è così. Luca, c'è un po' di italiano e sana spirito di quasi di odio, no? Appena vedono che uno ha un po', no? Subito, adesso subito gli anti-renziani, basta! Va troppo bene, diciamo. Va troppo bene. Cioè, ci sono i gufi, è vero quando Renzi dice c'è gente che spera che vada male, no? Assolutamente, dimenticando che insomma a volte l'interesse di una persona coincide con quello degli altri. Coincide con quello degli altri. Beh, sentiamo a proposito di Renzi, finora abbiamo parlato di calcio, ma qua ci sono le riforme da fare, ci sono le settimane decisive. Renzi dice noi le riforme le facciamo, e sentitelo. Noi le riforme le facciamo. E piaccia o non piaccia, quelli che vogliono frenare, noi a casa il risultato lo portiamo. Lo portiamo sulla legge elettorale, lo portiamo sulla riforma costituzionale, lo portiamo sulla riforma del mercato del lavoro. La legge elettorale, cara Paola, è la 62esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ma tu hai creato questo mantra. Ma secondo te c'è. No, mi interessa capire, tu che senti i politici tutti i giorni, gli ospiti, c'è questa sensazione appunto. Cioè, Renzi è sicuro di sé, dice. Ce la facciamo. E vabbè, fa bene essere ottimista. E d'altra parte ci sono i frenatori, come li chiama lui. Ci sono i frenatori, ci sono quelli che dubitano fortemente. Ci sono i frenatori in quanto tali. Poi ci sono quelli che dicono è davvero il modo questo per arrivare al risultato. Poi ci sono quelli che dicono diamo fiducia e vediamo che succede. E poi ci sono i tifosi, quelli che remano con. E quindi è tutta un'escalation, no? Tu piano piano incontri quelli che proprio no, non se ne parla assolutamente, e mano a mano. E invece, chi lo sa, forse stiamo andando comunque verso riforme che si faranno. Chi lo sa, tipo, bisogna vedere quanto è forte il rematore rispetto alla corrente al frenatore dell'acqua. Sentite per esempio Minzolini, uno che è considerato uno dei frenatori di Forza Italia, lui e Mineo, Min, tanto che Renzi li chiama la dinastia Min. Sentite Minzolini. Mi piacciono le battute, quindi potremmo fare una favola cinese. La dinastia Min, i guerrieri Min contro l'imperatore di cartone. Eccolo lì, l'imperatore del cartone ovviamente sarebbe Renzi per Minzolini. Ma ora vi devo far dare un voto, il classico voto. Quando i politici parlano in inglese, in questo caso il presidente del consiglio che ieri era a Venezia, no? A parlare di tecnologie, di digital divide, ha parlato in inglese. Allora sentite Matteo Renzi, è pronti con il voto, professor Dini, professoressa Saluzzi. Antonio Meucci is an incredible man, Florentine, who worked in the theater, in the most ancient theater of Europe, Teatro della Pergola. And he was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. Sì. A genius. Genius. Caro Luca, come va? No, Sì, allora, sì, giusto, severo, ma giusto. Siccome non è un obbligo saper parlare, cioè, per parlare bene in una lingua che non è la tua, sì. dico 7, anche perché ricordo la media dei politici italiani che sì, è sette. Molto, vabbè, molto mi sembra un po' generoso, 7, diciamo, sì, un po' generoso, 7 con dai, generosità, Va bene, Paola Saluzzi, voto, ti facciamo sentire un altro pezzo, sentiamo un altro pezzo, così ti rimane bene nelle orecchie, ancora Renzi. Meucci is a very good Italian, but is also an history, a terrible history. Questo Meucci is the real inventor of telephone. E qui zoppica un pochino, Paola Saluzzi. But also the Congress of United States in 2002. È partito. 2001, I didn't remember. Recognize the founder, the inventor Paola, of che dici? Telephone. Ah, io sposo assolutamente il 7+. 7+. Nel senso, è un fiorentino che parla inglese. Che parla inglese. Mi sembra Roberto Benigni. Roberto Benigni. Fiorentino, ma, cioè, parlano è la loro calata con l'inglese accanto. Vabbè, ma questo non per dire diamo 7 perché è Matteo Renzi, no, perché sono le persone che parlano la loro lingua in inglese. Madonna, che articolato di giudizio. Certamente ricorda sempre il mitico quando Luca Dini ha parlato degli altri politici. Ricorda il mitico presidente della provincia di Napoli, quello che disse. È una cura di salute per tutti. È meraviglioso. Il World Urban Forum è Luca. Questo certo. Dammi più di 3 a questo World Urban Forum. No, e poi 2. Qualcuno se lo ricorda Rutelli? Berlusconi? Come no. Berlusconi sa il francese, dice così. Cantava anche in francese. Ma anche sul francese stroncato. Vabbè, io la copertina di Vanity Fair qui, perché l'ha dedicata a John Kennedy Jr., che scomparve 15 anni fa. Perché appunto scomparve 15 anni fa, è l'anniversario. No, però io ho solo tempo per segnalare la classica segnalazione che faccio, diversa, continua la vostra inchiesta a tappe. Dove siete adesso nel raccontare queste storie di migranti con foto, tra l'altro terribile, molto molto efficace, ma anche molto crude, che viaggiano per andare verso il Mediterraneo, in Libia, credo. Siamo nel deserto tra la Libia e il Sudan. Ed è la penultima puntata e poi uscirà l'ultima. È una storia che vi segnalo, solo tempo questo per segnalare in chiusura su Vanity Fair, mentre Paola Saluzzi alle 15 tu sarai in onda. SMS poco fa, poco da fare, Paola è la quintessenza dell'Eros. Ma io arrossisco in radio. Paola Saluzzi, commissario tecnico, peraltro. Alle 15 che fai tu? Allora, meglio che io faccia il nostro pomeriggio, ringrazio comunque. Sì? E politica. Oggi proprio ci dedichiamo alle riforme, e alle settimana decisiva, ormai saremo per il Senato. Tu dovresti mettere il settimana decisiva come tuo copyright, Mina. Vabbè, adesso vado a registrarlo. Proviamoci. come marchio. Vi ringrazio, Paola Saluzzi. Come CT della Nazionale mettiamo il nostro Luca Dini. Ah, va bene. Avremo Luca Dini, risultati. CT della Nazionale. Fidatevi. Grazie, alle 15, se volete, su Sky TG24 pomeriggio c'è Paola Saluzzi e Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Il numero ovviamente in edicola. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Le 7:18 minuti, ci siamo, cari ascoltatori, nel pieno della 62esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, anche se mancano i decreti attuativi. Però l'abbiamo scoperto ieri. Siamo qui. a raccontare quello che c'è sui giornali, a ricordarvi che oggi andremo avanti come sempre fino alle 9.30, come tutto questo mese di luglio. Parleremo di tanti temi, torneremo sull'omicidio stradale. Questa è la proposta rilanciata anche dal sottosegretario Nencini, sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, che avremo ospite alle 8.15 per parlare della proposta di togliere la patente a vita per chi, ubriaco sotto l'effetto della droga, provoca un qualche incidente nel quale perde la vita qualcuno. Torneremo anche sulla vicenda della Calabria, cercheremo di capire perché il Consiglio regionale non si dimette, come ci ha detto ieri il ministro Lanzetta, nonostante il governatore sia decaduto. Avremo ospite il presidente del Consiglio regionale calabrese. E poi parleremo alle 9 di immigrati, questa notizia che mi ha colpito ieri delle rimesse dei migranti, cioè i soldi che spediscono a casa, che sono diminuiti rispetto agli ultimi anni, la cifra più bassa degli ultimi 7 anni, certifica Banca Italia. Tra l'altro c'è una proposta su questo della Lega di tassare queste rimesse. È una proposta vecchia che però viene rilanciata anche in Europa. Avremo ospite Matteo Salvini alle 9.05, segretario della Lega Nord. Avremo ospite Khalid Shaukhi, deputato del PD, per parlare di questo, di temi legati all'immigrazione. Come vedete, tanti ospiti, tanti temi. Cominciamo dai giornali, va, andiamo a leggerli. In questo mercoledì 9 luglio i titoli, il Sole 24 Ore apre su effetto crisi sulle pensioni, tutti i calcoli per l'assegno. Per il secondo giorno consecutivo il Sole apre sulle pensioni degli italiani. La situazione invece in Medio Oriente per il Corriere della Sera in apertura, Israele e Hamas, lampi di guerra, questo è il titolo, mentre la vicenda italiana politica è la condanna con successive dimissioni del presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. Condannato, Errani lascia. Il PD ripensaci. Questo è il titolo di Repubblica. Renzi salva un altro condannato, Errani. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Mentre invece Libero, compagni che affondano, Errani, ma anche Marino e Pisapia. Marino per la questione rifiuti, Pisapia per la Milano allagata ieri dopo che è esondato il Seveso. Errani condannato, caso nel PD, questo è il titolo del Messaggero. Condannato Errani, il PD lo difende, questo è il titolo del Secolo XIX. Mentre l'economia è sulla Stampa. L'Ecofin gela l'Italia, spese, niente deroghe. Il Giornale invece mette in prima pagina assolto Berlusconi Junior per il caso Mediatrade. L'Unità al PSE la guida dell'economia, un socialista nel ruolo chiave della commissione. Mentre il Manifesto si concentra come il Corriere della Sera sulla guerra in Medio Oriente. Il titolo del Manifesto sono i raid a Gaza, in cui sono morti anche donne e bambini, e questo è il titolo, prima le donne e i bambini, con foto di macerie. Voglio però partire da notizie, per così dire, diciamo leggere, o comunque una legata alla politica, ma non solo, l'aveva detto, e ieri Francesca Pascale, fidanzata di Silvio Berlusconi, è andata a Napoli per ritirare la tessera dell'Arcigay. E allora su tutti i giornali c'è una serie di interviste, no? Per esempio Concita Sannino su Repubblica, pagina 7. Con chi se la prende Francesca Pascale? Se la prende intanto con Daniela Santanchè, che ha detto la Pascale prende la tessera dell'Arcigay, come se io prendessi la tessera della FIOM, così ha detto Daniela Santanchè. E allora eccola qua Francesca Pascale, che non si sottrae alle domande dei giornalisti. Berlusconi aveva fatto battute infelici e maciste sugli omosessuali, ma quella era goliardia e io posso non essere d'accordo con quelle battute. Ora c'è sostanza politica. Sulla Santanchè è un sarcasmo fuori luogo. Io potrei dire la Santanchè sfoggia sempre borse griffate e chissà se sono originali. Mi sembrano commenti fuori luogo. Sui gay attacchi politici. E poi Pascale rilancia ancora Marina Berlusconi. È lei che deve guidare Forza Italia. Tra l'altro Repubblica, come tutti i giornali, chiedono a Francesca Pascale: mi scusi, ma lei ha querelato la signora Michelle Bonnev? chiedeva perché l'aveva definita lesbica, quindi per coerenza o per logica ora lei ritirerebbe questa querela, visto che ha preso la tessera dell'arcigay. C'è un equivoco, risponde Francesca Pascale. Io non ho denunciato la Bonev per la semplice definizione di lesbica, tutt'altro. Ho chiesto che fosse giudicata per diffamazione perché mi ha trattato come una bugiarda, una che ingannava o ricattava, secondo lei, le persone a me care. Ecco perché quella denuncia resta e come, e vorrei cortesemente non parlare più di quella signora. Ma anche la stampa dedica una pagina, Francesca Pascale, mattatrice. Pascale, Santanché, non condivido mai quello che dice. Questo è il titolo dell'articolo di Mattia Feltri, inviato a Napoli al seguito di Francesca Pascale. Tessera 12232829 dell'Arcigay. Come comunica Alessandro Cecchi Paone, che l'accompagna, ha da dire contro Daniela Santanché, scrive la stampa. Nessuno le ha chiesto nulla, dice la Pascale. Lei ha le sue posizioni politiche che condivido di rado e soprattutto non condivido stavolta. Ha detto una sciocchezza retorica e politica sulla FIOM, che si occupa di lavoratori. Noi qua ci occupiamo della dignità dell'essere umano. Gli italiani che vogliono più diritti per gli omosessuali sono il 78%. E su Gasparri, che secondo cui non si può finire così parlando di cani, dentiere e froci, beh, Gasparri mi incuriosisce, risponde la Pascale, anche se non lo capisco, che lo abbia detto lui o no, non importa, dico che mi preoccupa un ladro, un disonesto, un mafioso, un corrotto, un pedofilo, non mi preoccupano i gusti sessuali, così Francesca Pascale, che anche sul Corriere ha il suo bello spazio. Coppie gay, voglio ispirare la legge sulle unioni civili. Così Francesca Pascale, l'articolo trovate a pagina 11. Mentre si apre il fronte, sono sempre più ampie le dichiarazioni di coloro che dicono sì, ci vuole un'apertura sulle unioni civili. Beh, oggi Repubblica pubblica una pagina che mi ha veramente colpito in negativo per quel che riguarda l'Italia, su quanto siamo indietro in alcuni campi. È una battaglia che ha portato avanti e sta portando avanti una neodeputata, Vanessa Camani, deputata che è subentrata ad Alessandra Moretti dopo le europee in Parlamento. Vanessa Camani ha 37 anni, ha due figli, l'ultimo dei quali nato da poco. Ebbene, pensate che questa onorevole non può frequentare di fatto la Camera perché deve allattare ancora ogni tre ore il proprio figlio e alla Camera è vietato far entrare i bambini. E racconta Repubblica, vietato allattare in aula, noi costrette a scegliere tra figli e politica. Pagina 21, un'intera pagina, la protesta della neodeputata Vanessa Camani sui diritti delle donne, l'Italia è fanalino di coda in Europa. Tra l'altro, proprio mentre ci sono le immagini all'Europarlamento, no? Licia Ronzulli è diventata famosa come europarlamentare, che allattava in aula, spesso portava anche la bambina, il bambino, la bambina, in aula per votare. Ebbene, pensate che invece Vanessa Camani, che viene intervistata da Concetto Vecchio su Repubblica, dice: mi hanno fermato in tanti per chiedermi ora cosa fai, la mamma o la deputata? E io rispondo a tutti: ma scusate, voi avete scelto tra il lavoro e l'essere genitori? Sono andata alla Camera una sola volta il 25 giugno, giorno della proclamazione, mi sono fermata anche l'indomani, ma poi rimango a casa perché i bambini non possono entrare a Montecitorio, io ogni tre ore devo allattare Pietro che ha tre mesi, pensavo di portarlo con me, pure Anna, due anni, ma non c'è la nursery, non c'è uno spazio per i bambini. La babysitter non allatta, e quando ho messo piede in Parlamento quelli del PD sono stati gentilissimi, mi hanno messo a disposizione la sala Berlinguer, ci siamo piazzati con passeggino, pannolini, biberon, io, mio marito e un'amica, poi sono andati in aula, ma non è una soluzione. Ma Madia è un ministro mamma, non è un esempio, ma lei vive a Roma, io da Padova ci metto tre ore e mezzo in treno, quindi fino a settembre non andrò in Parlamento, salvo che mi chiamino per i voti di fiducia. Ho la scorta di latte materno in freezer per avere un'autonomia di un giorno e mezzo. Dall'autunno starò a Roma dal martedì al giovedì o assumerò una tata. Ma mi sembra abbastanza incredibile, cioè, che nel Parlamento, là dove si legifera, là dove si devono fare le leggi, là dove si deve modernizzare un paese, non ci sia la possibilità per una neomamma di allattare e contemporaneamente fare la deputata. Una cosa veramente assurda. Come assurdo, domani forse chiamiamo Carlo Rienzi, perché questa me la deve spiegare. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, spesso nostro ospite. Assurdo quello che leggo in prima pagina del quotidiano Libero: Schettino fa il testimonial del Codacons. Io quando ho letto questo titolo ho detto: no, Schettino, ma proprio Carlo Rienzi, che ci ha parlato varie volte anche contro Schettino. Domani viene presentata la TV del Codacons, di cui Carlo Rienzi ci ha parlato, e che scrive Libero con Francesca D'Angelo in prima pagina: Capitan Naufragio, guest star della TV dei consumatori. Nel comunicato stampa il Codacons dice che ci sarà giovedì 10 luglio, domani, un'intervista in esclusiva al comandante Schettino, che sarà anche presente in conferenza stampa. Schettino testimonial della nuova TV del Codacons. Ma Carlo Rienzi, ma che combini? Avvocato Rienzi, presidente, dobbiamo domani chiamarla a capire questa cosa, il Schettino testimonial della TV del Codacons. Ma carissimi fedeli, ascoltate Alejandro Milan e la sua rassegna stampa. È il chierichetto dell'informazione. Palabra de Papa Francesco. Vabbè, addirittura. Non esageriamo. Allora, alle 7:35 minuti, la politica è tutta concentrata su quello che succede al Senato. Ancora le ultime schermaglie, o meglio, le schermaglie ora arriveranno in aula, la stretta finale per il Senato, accelerazione sul nuovo federalismo. Ieri Renzi ha detto, in un lampo di grande autostima: ce la faremo, porteremo a casa le riforme, porteremo a casa la riforma del Senato, la riforma elettorale, la riforma del lavoro, porteremo a casa tutto. Alla faccia dei frenatori. In questo momento, racconta il Corriere della Sera con Tommaso Labate, la riforma del Senato deve essere definita così: rivoluzionaria. Questo è il tema, è il termine utilizzato da Matteo Renzi ieri. L'unico problema, racconta sempre il Corriere della Sera, pagina 9, è che Matteo Renzi effettivamente ci vuole veder chiaro su questa storia dei decreti attuativi che mancano. Il Sole 24 Ore ne fa una campagna da tempo con Rating 24. Ieri il Corriere della Sera anche faceva notare quanti decreti attuativi mancano dal governo prima Monti, poi Letta, poi anche dei provvedimenti presi da Renzi, uno dei quali i provvedimenti è quello sull'abolizione delle province, o meglio la riforma delle province. Anche qui mancano i decreti attuativi, ma ieri il ministro Lanzetta qui ai nostri microfoni ha detto che arriveranno a fine luglio. In ogni caso, sui decreti attuativi, Maria Teresa Meli del Corriere della Sera racconta: Renzi, l'imbuto dei decreti attuativi, unità di missione a Palazzo Chigi. Che cosa pensa Matteo Renzi? Parlarne domani al Consiglio dei Ministri, e sta meditando di mettere in piedi un'unità di missione a Palazzo Chigi che si occupi dello smaltimento dei decreti attuativi arretrati. Una struttura, insomma, che si dedichi da mane a sera a questo più che impegnativo lavoro, visto che vi sono provvedimenti che risalgono addirittura al 2006, per i quali mancano i decreti attuativi. 2006, magari provvedimenti che erano stati annunciati in pompa magna 8 anni fa e mai entrati in vigore. Sulla questione invece delle riforme, pare Renzi che possa contare sulla fiducia totale di Silvio Berlusconi, alla luce del patto siglato tra i due dopo una serie di incontri. Così almeno assicura Repubblica nel retroscena, firma Francesco Bei a pagina 6. Berlusconi: le riforme si votano senza se e senza ma. Non ci sarà nessun dissenso, a Renzi gliel'ho detto, per i miei garantisco io. Questo filtra da Arcore in una indiscrezione. Se sia una convinzione sincera o un estremo tentativo per indurre i frondisti di Forza Italia a riallinearsi, lo si capirà soltanto domani. Sta di fatto che domani approda in aula la riforma del Senato. Bisognerà capire se i Minzolini di Forza Italia, i Mineo e i Vannino Chiti del Partito Democratico e ovviamente gli altri si piegheranno in qualche modo, se voteranno contro, se ci saranno i numeri, insomma, questioni di numeri parlamentari. Per quel che riguarda la poltrona, come assicura Libero, ci ha pensato il senatore Giorgio Pagliari, senatore renziano di stretta osservanza, professore di diritto amministrativo a Parma, componente della Commissione Affari Costituzionali, a mandare una mail a tutti i colleghi tranquillizzandoli: state sereni, se anche ci sarà la riforma del Senato, entrerà in vigore dalla prossima legislatura. E quindi poltrona assicurata fino a questa legislatura per tutti. Così titola Libero con Elisa Calessi: Renzi rassicura i senatori, il seggio è garantito per tutta la legislatura. A pagina 12, un fedelissimo del Premier spiega la riforma ai dissidenti: nessuno scioglimento anticipato di Palazzo Madama. Chissà se questo tranquillizzerà qualche malpancista. Oh, invece Renzi ha a che fare con qualche problemuccio in Europa, così almeno racconta in un retroscena Fabio Martini, a pagina 3 della Stampa. Ieri Renzi era al Digital Divide, al Digital Venice, dove si parlava appunto di agenda di digitale, di digitalizzazione, di tecnologie, di modernizzazione del paese. Ebbene, il titolo della Stampa è questo: Renzi scottato confida ai suoi, Bruxelles ha una visione miope. Perché Renzi ha proposto questo nel suo discorso in inglese, uno stralcio, l'abbiamo fatto sentire alle 6.30. Ogni singolo euro investito in infrastrutture digitali va escluso dal patto di stabilità europeo. Non è bastato dirlo in inglese. Il commissario Siim Kallas, racconta la Stampa, estone, non uno sprovveduto, già primo ministro del suo paese, presidente della banca centrale, destinato a tornare alla guida dell'Estonia nel giro di pochi minuti, ha risposto: le regole vigenti non consentono uno scomputo delle spese per investimenti tipo quello del digitale, e dunque ha respinto al mittente dicendo che nessuna spesa può essere esclusa dal calcolo del patto di stabilità. Questo vuol dire che Renzi deve incassare questo no dell'Europa, e racconta la Stampa la reazione di Renzi, anche se in modo informale, è stata questa, definendo miope l'atteggiamento del commissario Kallas e dell'Europa. E avrà di che lottare in questo semestre di presidenza europeo contro il rigore dell'Europa. E invece ha da lottare per qualche problema in casa, dopo che Vasco Errani è stato condannato in appello, governatore dell'Emilia, per falso ideologico, e si è dimesso dalla presidenza dell'Emilia Romagna. È una vicenda politica molto importante per quel che riguarda il Partito Democratico. Giusy Fasano ne parla a pagina 14 del Corriere della Sera: Errani dà le dimissioni per la condanna a un anno, il PD gli chiede di restare. Tutto in pochi minuti succede, racconta Giusy Fasano: la condanna, le dimissioni, la dichiarazione di resa, è un momento di amarezza, ma non si faccia confusione, quanto subisco io personalmente non diventi fango per l'istituzione. Condanna per falso ideologico in atto pubblico, perché lui ha indotto due funzionari regionali a scrivere il falso in una relazione che doveva attestare la regolarità di un finanziamento di 1 milione di euro concesso a una cooperativa Terre Emerse gestita da suo fratello per la realizzazione di una cantina agricola a Imola. Tra l'altro, appunto, la sensazione è questa, attenzione, cioè tutto nasce perché il giornale qualche anno fa pubblicò questa notizia, no? Di questo finanziamento a una cooperativa gestita dal fratello da parte della regione Emilia-Romagna. Vasco Errani prese carta e penna e incaricò due funzionari di fare una relazione per spiegare che tutto era regolare, e proprio da quella lettera che Vasco Errani fece fare ai due funzionari è partita l'inchiesta della procura, falso ideologico e dunque la condanna. Quindi in qualche modo Vasco Errani si è incastrato da solo, oggi raccontano tutti i giornali, il giornale la mette proprio così a pagina 2 con Stefano Filippi: si è fatto del male da solo. Il giornale aveva svelato lo scandalo della cooperativa agricola Terre Emerse, presieduta dal fratello maggiore Giovanni. La procura di Bologna aveva aperto un fascicolo. Il governatore aveva consegnato ai magistrati una memoria redatta da due funzionari a sua discolpa. Ma proprio quella relazione, farcita di contraddizioni, ha dato il via all'inchiesta. Errani era stato assolto in primo grado con rito abbreviato, ora è stato condannato a un anno per falso ideologico. E racconta Repubblica in questo colloquio di Giovanni Egidio proprio con Vasco Errani, non è una vera e propria intervista perché Errani pare abbia spento tutti i telefonini, una sorta di colloquio, dice Errani: dove ho sbagliato non lo so, non chiedetemelo oggi, so che c'è una sentenza d'appello, so che le sentenze si rispettano anche politicamente, quindi me ne vado, con enorme amarezza, penso possiate capirlo, ma me ne vado perché io sono innocente e lo dimostrerò in Cassazione. E su questa lettera che ha spedito dice: è vero, un autogol clamoroso? Piano, da un punto di vista strettamente processuale, è chiaro che se non avessi spedito quella lettera per dimostrare la mia estraneità dei fatti, non sarei mai stato coinvolto in questa vicenda. Quindi, se volete, chiamatelo pure un errore, ma resta il fatto che rifarei tutto dalla A alla Z, perché un conto è la strategia, un conto sono io, la mia rispettabilità, il mio senso del dovere. Comunque, Errani si dimette e dice: verrò poi assolto. Caro Mauro Meazza. Buongiorno Alessandro, ma non ho capito tutta questa tirata sulle dimissioni, se sì. Vuole essere un consiglio. No, infatti, no. Non è che ho perso 7-1 io ieri, quindi... No, se avessi perso 7-1, a me non me ne sono accorto, quantomeno, forse neanche i brasiliani si sono molto accorti. Invece no, ti vorrei dire, tra le tante cose che abbiamo oggi sul Sole 24 Ore, oltre al calcolo della pensione, se vuoi vedere anche tu una proiezione, ma tu sei giovane, sì, sei lontano da queste preoccupazioni. Infatti io so già che non la prenderò mai, quindi sono sereno. E più che altro credo che ne prenderai pochina, già te l'avevamo un po' segnalato lunedì questo problema, ma oggi anche presentiamo degli altri casi, degli altri calcoli, e insomma qui se non riparte un pochino la crescita, anche le pensioni avranno il loro da fare. Ci sono poi, a proposito di pensioni, un riepilogo di tutti i versamenti alle casse da parte dei professionisti, quindi avvocati, notai, anche giornalisti, caro Alessandro. E poi ci sono i conti del Milan nelle pagine di finanza, e non sembrano eccellenti, no, ma non voglio dire niente perché so che non sarei credibile. Ma è semplice, vendiamo Balotelli e li risaniamo. Io da mesi che lo dico. So che non sarei credibile, non ti dico niente. Ti rimando alle pagine però di finanza, dove troverai peraltro anche lo sviluppo della trattativa all'Italia Etihad, che dovrebbe chiudere questa settimana, è la settimana decisiva. Tra le tante decisività abbiamo anche questa questione non piccola di Alitalia Etihad. E poi sai che c'è l'ipotesi, i tedeschi, ma non è un effetto della partita di ieri sera, vanno avanti con il loro progetto di far pagare il pedaggio delle autostrade, ma solo ai non tedeschi. E come no, infatti ne parleremo un pochino, io ho il sottosegretario Nencini ai trasporti per parlare dell'omicidio stradale, e chiederò anche questa cosa, e poi avremo anche Roberto Giardina da Berlino, per capire. Non so se questo poi si può collegare in qualche modo, si può vincolare alle prestazioni calcistiche, ma non lo so. Se fosse così, secondo me toccherebbe almeno oggi dargli ragione e, come dire, rassegnarsi a pagare. Comunque, ma questo è molto interessante, cioè in Germania, ribadiamo, Alessandro Merlin scrive sul Sole, vogliono mettere un pedaggio per soli stranieri nel 2016, hai capito i tedeschi, sull'autostrada. Ci sono altri paesi europei che già hanno questo tipo di meccanismi. Basta, quindi... un 7-1 al Brasile, si monta alla testa. Ci si fa subito prendere dall'entusiasmo. Sì. Va bene, e allora, visto che abbiamo parlato di strade... Esatto. Si impone a questo punto. Traffico. Alessandro Milan, José Mourinho dell'informazione. Mi sembra giusto, abbiamo parlato di calcio. Allora, a proposito di sentenze, invece è stato assolto Berlusconi Junior, cioè Pier Silvio Berlusconi, insieme a Fedele Confalonieri, l'affare Mediatrade. Racconta Luigi Ferrarella, pagina 17 del Corriere della Sera. L'eredità di Berlusconi, come il PM Fabio De Pasquale aveva battezzato il processo Mediatrade sulle compravendite gonfiate di diritti TV in stagioni successive a quelle già costate nel 2013 la condanna definitiva a Berlusconi, non ricade sul figlio Pier Silvio e nemmeno sul manager amico di una vita Fedele Confalonieri. Dopo 5 giorni di camera di consiglio, il presidente di Mediaset e il vicepresidente sono stati assolti ieri dalla sezione seconda del Tribunale di Milano dall'accusa di frode fiscale per 51 milioni di dollari. la sentenza che solo per l'anno 2005 dichiara il reato di frode fiscale estinto per intervenuta prescrizione assolve anche Daniele Lorenzano, Gabriella Ballabio e Giorgio Dal Negro, e vale letteralmente oro per il produttore americano Frank Agrama, perché in prospettiva può propiziare in Svizzera lo sblocco di 148 milioni di dollari sequestrati dal 2005 in questa inchiesta. Ovviamente il giornale titola in prima pagina assolto, eccolo qua, dov'è il giornale? Si è nascosto, il giornale si è nascosto, va bene. L'abbiamo trovato, eccolo qua, assolto Berlusconi Junior, e gli avvocati dicono a questo punto, visto che è la stessa materia per il quale è stato condannato Silvio Berlusconi, doveva essere assolto anche Silvio Berlusconi, ma sapete che i processi non è che funzionano così. Comunque la assoluzione per Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, questo sicuramente alleggerirà il momento anche di tensione di Silvio Berlusconi, che tutti i giornali raccontavano da giorni essere molto preso anche da questa vicenda processuale che riguardava il figlio. A proposito di cronaca, invece, torna la questione dell'omicidio Yara Gambirasio. Ieri è stato interrogato Giuseppe Bossetti, che è in carcere per l'assassinio di Yara Gambirasio, in carcere accusato di questo reato, anche se lui si proclama dal primo momento innocente. Paolo Berizzi e Piero Colaprico raccontano a pagina 18 di Repubblica la sfida di Bossetti ai PM, la spiegazione del perché su Yara c'era il mio DNA. Ve la do, eccola qui, ma non l'ho uccisa io. E la spiegazione è quella che già ipotizzava Repubblica qualche giorno fa, vale a dire: io faccio il muratore, lavoro nei cantieri edili, mi hanno rubato gli attrezzi, perdo sangue da naso e quindi probabilmente un po' del mio sangue è finito su questi attrezzi di chi me li ha rubati, e dunque, facendo capire senza fare nomi, dovete cercare la persona che mi ha rubato gli attrezzi, dovrebbe essere lui il presunto assassino di Yara Gambirasio. Questa è la spiegazione di Bossetti. I suoi attrezzi da lavoro erano sporchi di sangue e Bossetti, che soffre di epistassi, sostiene che sono stati rubati. Il ladro dei ferri dunque può essere l'assassino della tredicenne Yara Gambirasio, e su questo immagino che si concentrerà appunto la questione processuale. C'è invece il Secolo XIX che da due giorni racconta quello che sta succedendo a Diano Marina, località della Liguria, anche meta di turisti, ma Diano Marina rischia lo scioglimento come comune per infiltrazioni mafiose. È arrivata la commissione antimafia, è tutto secretato il lavoro, ma il Secolo XIX da due giorni racconta che aleggia su Diano Marina il rischio di scioglimento per legami appunto con la mafia. Diano Marina, dove la mafia spaventa il turismo, racconta in questo reportage Giampiero Timossi quello che succede nella provincia di Imperia. Il sindaco che è a capo di Diano Marina è un sindaco della Lega, Giacomo Chiappori, leghista della prima ora, ultimo amministratore della Lega in Liguria, quindi non vorrei fosse per questo che stanno un'altra volta cercando di farmi fuori, ma sbagliano e se ne accorgeranno, dice così all'inviato del Secolo XIX, e poi aggiunge: ieri ho passato una giornata, non una gran giornata, una giornata di merda, in verità. Si racconta insomma di alcune partecipate, in particolare la gestione municipale del comune di Diano Marina, che sarebbe infiltrata dall'Ndrangheta. Queste almeno sono alcune delle accuse sulle quali la commissione parlamentare antimafia ha voluto vederci chiaro. Che dire, c'è ancora, beh vabbè, ma ragazzi, il ladro più scemo del mondo. Ma come si fa? Su Libero, a pagina 19, ha rubato un cellulare, uno di quegli iPhone. E cosa ha fatto appena rubato un iPhone? Si è fatto un selfie. non sapendo, Peter Beschiappè ride, non sapendo che facendo il selfie quell'iPhone era collegato in maniera automatica, per cui quell'immagine andava automaticamente sul profilo Facebook della persona proprietaria dell'iPhone, e quindi ha rubato l'iPhone e la sua faccia se l'è messa sul profilo Facebook della persona a cui ha rubato l'iPhone. Ovviamente questa persona ora ha diffuso la foto dicendo: pescate questo malfattore che mi ha rubato l'iPhone. Ladro più scemo del mondo, fa il selfie col cellulare appena rubato. A pagina 19 di Libero va pescato e ritrovato, giusto per dargli un paio, non lo so, come si faceva all'oratorio una volta, un paio di coppini e via, e vai, vai libero, libero, perché sei talmente stupido che sei veramente, ti lasciamo libero così, va bene. È il momento, come direbbe mia mamma, gli è sciupata la stupidera. Chi è milanese sa cosa vuol dire. Il titolo della Gazzetta dello Sport: toda tristeza, non toda bellezza. Ragazzi, ma che è successo al Brasile? Come ha scritto ieri uno su Twitter, vedendo la partita, dice: beh, il Modena gioca male stasera. Che sembrava il Modena, con tutto il rispetto per il Modena, ma in un consesso mondiale. Il Brasile, che è successo? Toda tristeza sulla Gazzetta dello Sport. E c'è tempo solo per dire che la carta Costa va oggi al secolo XIX, che ha fatto una classifica del Good Country Index, cioè non è che il secolo XIX l'ha fatta, pubblica questa notizia del Good Country Index sul paese più buono del mondo. Mamma mia, quando succedono queste classifiche io divento una belva, ma che vuol dire? Comunque l'Irlanda, sappiate, è il paese più buono del mondo. Ma dai, amici del secolo, la carta Costa, ma che classifiche sono, su, dai. Mattino. Sono le 8:18 minuti in punto, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo tornare oggi su un tema che abbiamo già dibattuto di recente, riguarda tutti gli italiani, visto che tutti ci spostiamo in macchina, magari vi state spostando in macchina anche in questo momento, in un paese, l'Italia, purtroppo, in cui c'è in media il doppio dei morti sulle strade rispetto agli altri paesi europei. E come mai? C'è poca prevenzione, c'è poca durezza delle pene per chi compie reati in macchina, ci sono pochi controlli, chi lo sa? Ne vogliamo parlare, e vogliamo parlare con anche della proposta, per la verità non nuova, che rispunta di tanto in tanto, dell'ergastolo della patente per chi provoca un incidente mortale, con il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno. Buona giornata. Allora, lei ha proposto questo ergastolo della patente, ma per chi lo pensa? Non per chi mangia un moscerino ogni tanto, ma per chi considera i viali cittadini come fossero l'autodromo di Monza, oppure per chi guida in stato di ebbrezza, quindi ubriaco, per chi guida avendo fatto uso di stupefacenti, quindi è un danno per sé e un danno per gli altri. Per queste persone si prevede l'ergastolo della patente, però siccome se ne parla da molto, Nencini, che cosa impedisce veramente che si faccia questa cosa? Ci sono opinioni intanto controverse, sia sull'ergastolo della patente che sull'omicidio stradale. Oggi penso che sia una giornata importante perché la Camera, nella nona commissione, discute gli emendamenti al nuovo codice della strada, alla legge delega al governo, e spero e penso che vi sarà una posizione largamente condivisa sia sull'ergastolo della patente sia sull'omicidio stradale, quindi l'iter potrebbe essere pacificamente e benevolmente avviato. Cioè chi pensa chi è contrario a questa ipotesi pensa per esempio che un errore, sebbene un errore grave, un errore molto molto pesante nella vita, non ti debba condannare a vita, appunto, a portare questa idea della patente ritirata per sempre. Nemmeno io penso che un errore grave nella vita debba essere penalizzante per tutta la vita, ma qui non stiamo ragionando di questo, qui stiamo parlando di chi assume alcolici, è ubriaco e guida la macchina, stiamo parlando di chi fa uso di droghe, sale, si mette al volante e guida l'auto, stiamo parlando di chi in città sfiora delle medie che potrebbero essere medie da autodromo. Questo certamente, però non crede che ci sia una discrepanza tra il magari prendere 3, 4, 5, 10 anni di carcere, cosa che peraltro non succede, e avere invece d'altra parte la patente ritirata per sempre? Io penso che debbano esserci delle misure che sconsigliano e che rendono consapevoli. Noi abbiamo abbattuto il numero del disagio stradale, dei tanti disagi stradali e anche degli incidenti, utilizzando la patente a punti, che ha funzionato. Ha funzionato soprattutto nei primi anni della sua uscita. Ora si tratta di impinguare quel meccanismo, rafforzarlo, modificarlo anche soprattutto per quello che riguarda chi ha i neopatentati, ma bisogna prendere le misure perché i numeri che abbiamo riguardano i giovani, 3 bambini morti, ammazzati sulle strade italiane soltanto l'ultimo mese e gli anziani in modo particolare. O assumiamo delle misure decisive e risolutive, altrimenti continueremo ad essere nelle classifiche europee nella posizione sbagliata. Su questo, guardi, io sono d'accordo, c'è dell'idea che ci vuole una durezza, cioè purtroppo gli italiani su alcune cose capiscono solo delle sanzioni efficaci, che però siano davvero efficaci, cioè se io, appunto, lei dice il ritiro della patente per i punti, forse quella misura ha perso un pochino di efficacia. Se invece uno dice guidi in stato di ubriachezza e ti ritiriamo la patente se succede un incidente mortale per sempre, ma poi veramente si fa, forse nel tempo qualcosa cambia. Non ho capito qual è l'iter migliore da utilizzare. Un procedimento di legge mi sembra che sia una cosa abbastanza lunga, oppure no? Per l'ergastolo della patente sicuramente la modifica del codice della strada e quindi l'atto che stiamo mettendo in campo proprio nel corso di queste ore. La commissione si riunisce oggi alle 2:30. Poi dopo la commissione naturalmente ci saranno Camera e Senato che dovranno valutare, mentre per l'omicidio stradale la cosa è più complessa, perché se modificassimo il codice penale la strada sarebbe lunga, dovrebbe essere concertato con la giustizia naturalmente. Stiamo pensando ad un provvedimento più rapido e quindi ad una strada diversa. A cosa fa riferimento? Faccio riferimento ad una, diciamo, non alla strada maestra, che è quella di un esame da parte delle Camere congiunto tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero di Grazia e Giustizia, ma stiamo valutando la possibilità di un decreto che tra le altre cose esamini anche la questione dell'omicidio stradale. Questo è interessante, diciamo, come notizia, anche perché il decreto, spieghiamo, ha bisogno di carattere di urgenza, no? L'urgenza da che cosa sarebbe determinata in questo caso? Sarebbe determinata dai numeri che aumentano. Parlo del numero dei morti, naturalmente, chiaro. Sulle strade e anche da un'altra considerazione, che è quella che ha reso necessario prendere in considerazione un'ipotesi estrema come questa. E la considerazione è che al numero di omicidi stradali non corrisponde la certezza della pena, perché fra attenuanti e patteggiamenti leggiamo sempre più spesso, e i numeri sono veri, che chi compie un omicidio del genere o non conosce le patrie galere o le conosce per troppo poco tempo rispetto al reato che ha commesso. Questa è appunto la discrepanza di cui facevo prima, però nonostante ciò rischia di perdere la patente per sempre. Sì, esattamente. Senta, per molti però c'è una discrepanza anche, una sorta anche di ipocrisia da parte dello Stato, che consente magari la vendita di alcolici anche nelle autostrade a disposizione, e poi magari uno con 2 bicchieri o un bicchiere di vino è fuori dai controlli. Secondo lei bisognerebbe intervenire anche su questo? Secondo me bisogna che ciascuno si doti anche di un'autoresponsabilità. Noi deleghiamo sempre agli altri, ma c'è una responsabilità nell'educazione dei figli, dei genitori, quindi delle famiglie, poi della scuola, ma soltanto poi, e poi c'è la consapevolezza personale. Tu sai che se bevi un cognac e poi ti metti in macchina potresti avere qualche problema. Questo certamente, ma lei si è data una spiegazione del perché purtroppo noi come statistiche siamo con il doppio di morti come media rispetto agli altri paesi europei? È un insieme di problematiche, oppure c'è una risposta maggiore, più importante rispetto alle altre? Ma non abbiamo limiti diversi, la Germania addirittura non ha limiti sulle strade di velocità, come sa, e quindi non si nasconde lì dietro una statistica che è decisamente negativa. Forse dovremmo cominciare a fare educazione scolastica, stradale scolastica. È un piano che stiamo lavorando ora con il Ministero della Pubblica Istruzione, che penso sia pronto tra settembre e ottobre, e lì far capire, visto che molti incidenti avvengono anche nelle città e riguardano gli anziani, quindi va fatta una forma di educazione a chi ha un'età più avanzata, e gli altri riguardano i ragazzini. Sempre più spesso si va in bicicletta e in motoretta, in maniera magari poco consapevole. Non è anche una mancanza di controlli? Cioè, se io vado all'estero e supero il limite di velocità di 10 km/h laddove non posso, succedono paesi nei quali, nel giro, mi raccontano per esempio in Canada, nel giro di 5 minuti vieni subito fermato in città, non come è giusto che sia. Non lo escludo. Noi abbiamo molte macchinette per le strade che misurano la velocità, forse c'è qualche vigile in più in ufficio. Avessimo più sulla strada, avremmo compiuto una cosa assolutamente giusta. Messaggio. Mi dica, per concludere, entro quando si pensa di mettere allo studio questo decreto sull'omicidio stradale? Cioè, i tempi sono stretti? Se c'è condivisione, siccome è un elemento, è una materia molto delicata e bisogna rispettare non solo chi ha idee diverse, bisogna rispettare anche le norme, io spero entro la fine di luglio. Entro la fine di luglio. Sì. Beh, insomma, questo io lo auguro e voglio intanto sperarlo, e torneremo a parlarne a questo punto, Vice Ministro, quando succederà, e se succederà la richiameremo. Intanto la ringrazio molto per essere stato con noi. Prego. Riccardo Nencini, voglio ricordare, il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che quindi dice entro la fine di luglio, se ci sarà accordo. L'idea è quella di un decreto legge, quindi una misura operativa subito e quindi con carattere di urgenza, che parli appunto dell'ergastolo, della patente e quindi dell'omicidio stradale. Facciamo così, sono tanti ovviamente i messaggi che sono arrivati, 800 24 00 24, se volete intervenire. Dopo la pubblicità cercheremo di capire, invece, andando da Roberto Giardina, che spesso chiamiamo, da Berlino, corrispondente per il Quotidiano Nazionale, che succede in Germania, dove invece sulle strade stanno pensando un'altra cosa, che è questa. Oggi ne scrive il Sole 24 Ore: far pagare gli stranieri i pedaggi autostradali, cioè far pagare di più gli stranieri rispetto ai tedeschi le autostrade. Questi tedeschi, basta un 7-1 misero al Brasile e si montano la testa, penserà qualcuno. Che ne pensate di questo? Se volete dite anche la vostra sull'omicidio stradale, sull'ergastolo della patente. Poi parleremo anche di Calabria, parleremo anche alle 9:05, visto che andiamo avanti fino alle 9:30, di immigrati, di immigrazione, insomma tanti temi, state con noi. 24 mattino. Allora, il Vice Ministro ai Trasporti e Infrastrutture Nencini ci ha detto che entro luglio si sta pensando di introdurre un decreto legge per l'omicidio stradale, l'ergastolo della patente per chi sotto effetto dell'alcol o sotto l'effetto di droghe o perché supera i limiti di velocità in maniera clamorosa compie un incidente nel quale qualcuno perde la vita. È un tema molto dibattuto. Ci ha raccontato anche Nencini che in Germania invece si può viaggiare in alcuni casi anche senza limiti di velocità, ma la Germania tra l'altro è interessante perché oggi sui giornali c'è una proposta che fa molto discutere. Per questo voglio salutare Roberto Giardina. Ben ritrovato Roberto, eccoci qua. Buongiorno. Corrispondente da Berlino per il Quotidiano Nazionale. Tra poco ce la spieghi questa proposta. Fammi prima sentire qualche ascoltatore, perché sai, sulle strade, sui codici della strada, gli ascoltatori sono sempre molto attenti. Vorrei sentire Andrea dalla provincia di Roma, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti. Eccoci. Volevo appunto dire, parliamo sempre di repressione, cioè di misure forti che tendono insomma a scoraggiare chi commette questi reati, ma di educazione il Vice Ministro ne ha appena accennato. Dice che proporrà a scuola un programma da settembre-ottobre. Per fare questo non ci vogliono 2 giorni, ci vogliono 20 anni per educare i ragazzi. Questo è vero. Forse bisognava cominciare qualche anno fa, ma come su tutti i problemi che... Però guardi Andrea, l'educazione, e sull'educazione io dico sempre, è fondamentale, ma io credo che una repressione, cioè se uno sbaglia, quindi controlli severi, ci vuole. Le faccio un'altra domanda, mi scusi, se prendiamo il soggetto che si ubriaca o si droga, secondo lei se gli leviamo la patente non prende più una macchina. Bravo, ed è lì che ci sono i controlli. Se uno prende la patente, se uno prende la macchina senza patente, se ci fossero i controlli ma serrati, è chiaro che se uno prende la macchina senza la patente e fa 200 km in autostrada, ma tanto non succede niente, o viene contro... Io non ricordo, veramente, ho la patente da quanti anni, credo di essere stato fermato 2 volte in vita mia da un controllo. 2 volte, forse una. C'è gente che guida 10, 15 anni, 20 anni, 30 anni, non ha mai subito un controllo da parte di una volante della polizia, mai. E questo vuol dire che è chiaro che uno dice: ma chi se ne frega se non ho la patente? Guido lo stesso, tanto non controlla nessuno. La ringrazio, Andrea. Vorrei andare a Reggio Emilia da Ennio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in merito ai morti sulle strade, sulla differenza che c'è tra l'estero e l'Italia. Io ho girato molto anche all'estero, però le infrastrutture all'estero sono totalmente diverse, in quanto sono piene di piste pedonali, ciclabili. Mm-hmm. Qui da noi in Italia tutti i pedoni viaggiano rasenti alle strade, ad alto scorrimento, e piste pedonali, ciclabili pochissime, quindi secondo me non si tratta solo di educazione in generale, ma è un problema proprio infrastrutturale che ci portiamo dietro da molti anni. È anche questo, Ennio, è sicuramente anche questo, e la ringrazio per il suo intervento, è così. Roberto Giardina, intanto è vero che in Germania si può andare in alcuni tratti senza limiti di velocità? Ma questo è vero e anche non vero, perché io ho contato proprio da Berlino a Francoforte, la distanza fra Roma e Milano, più di 500 km, i tratti liberi sono 70-80 km, poi gli altri 730, 110, 100. E se uno sgarra km. E se uno sgarra lì, ci sono controlli? Io ho preso una multa per eccesso di velocità perché andavo a 37 all'ora a Berlino invece che a 30, 10 euro di multa, vuol dire i controlli ci sono capillari. No, per dire 10 euro di multa. Allora, però la proposta che c'è da parte della Germania, da parte del ministro tra l'altro dei trasporti, Alexander Dobrindt, è questa: far pagare dal 2016 il pedaggio in autostrada solo agli stranieri. È una norma molto dibattuta, sulla quale già immagino a Bruxelles aguzzeranno la vista, ma intanto la proposta è concreta, va avanti. La proposta è concreta, va avanti, perché sono i cristiano sociali bavaresi, il partito della Merkel sono in realtà 2 partiti, uno bavarese e uno nazionale. I bavaresi sono alla destra, i bavaresi sono arrabbiati perché appena fanno 100 km finiscono in Austria o in Svizzera e devono pagare la vignette, e invece tutti gli stranieri passano dalle strade tedesche senza pagare nulla. Però questa proposta di legge va contro le norme europee, quindi è molto difficile che passi. Anche gli stessi colleghi al governo di Dobrindt sono molto scettici. Ecco, però è contro l'Unione Europea. Attenzione, qui ci sarebbe l'inghippo, cioè i tedeschi, se ho capito bene, vorrebbero fare così: far pagare a tutti, anche ai tedeschi e a stranieri, sì, tedeschi tutti. Poi sì, i tedeschi avranno un rimborso, cioè gli verrà a casa dato un rimborso di quello che hanno pagato, gli stranieri invece no. Questo servirebbe ad aggirare appunto l'idea che alla Commissione Europea non passerebbe mai di un'imposizione squilibrata tra stranieri e tedeschi. Sì, sì, è un po' un trucco all'italiana, diciamo. Io in realtà invece di pagare non so 300 euro di tasse di circolazione pagherò 200 più 100 per questa vignetta, quindi pago lo stesso, mentre gli stranieri pagheranno 100 euro 80 secondo che macchina hanno. Però questo intanto, la cifra complessiva sarà 7 miliardi di euro, però in realtà gli stranieri che circolano in Germania sono l'8%, quindi si scende a 600-800 euro, e tutta questa complessa macchina burocratica finirà per costare quasi lo stesso. Quindi in realtà è una grande macchina che si mette in circolo, però poi nelle casse tedesche entrerà molto poco. Sì, ma io il principio non l'ho ben capito. Sì. Perché gli stranieri, secondo il ministro dei trasporti, dovrebbero pagare di più? Cioè è una questione di rivalsa, perché, non so, di orgoglio, sì, tedesco? Non lo so. Cioè... La spacciano per giustizia europea. Perché, ma che dicono, giustizia? Noi giriamo in Francia e paghiamo, andiamo in Svizzera e paghiamo. La Svizzera non fa parte della comunità. Ho capito, ma anche paghiamo. Cioè, quindi bisogna pagare anche in Germania. Vabbè, si paga tutti allo stesso modo. Cioè, anche io italiano pago in Italia l'autostrada, come un tedesco la paga in. E questa è la differenza che appunto per questo secondo me non passerà a Bruxelles questa, cioè perché dovrebbe pagare di più un tedesco che viene in Italia, già ci porta i soldi per il turismo eccetera, che li devo far pagare anche di più, cioè non ho capito perché dovrebbe pagare di più un francese che va in, che usufruisce, sì, sì, diciamo che è una specie di vendetta bavarese, verso di... una vendetta bavarese, sì, perché bisogna capire, la Baviera è un land, una regione che come prodotto nazionale, prodotto regionale lordo supera l'Olanda e il Belgio messi insieme, quindi ha un peso notevole sulla politica poi tedesca nazionale. Comunque poi i bavaresi sono dei tedeschi un po' a parte. C'è ovviamente molte proposte, tantissimi sms su questo tema, molti ci dicono per esempio basta mettere una, sempre sul tema della questione degli incidenti, una scatola nera sulle macchine oppure una telecamera sulle macchine o quei dispositivi per cui tu hai la patente scaduta, devi passare tipo codice fiscale per far funzionare la macchina. Ecco, l'idea che in Germania uno non ha la patente ma si mette al volante lo stesso è un... finisce in galera immediatamente, questo è il punto, perché per esempio le norme tedesche sono meno severe di quelle italiane, se io per la prima volta bevo un bicchiere di troppo senza avere incidenti mi tolgono la patente per un mese, la seconda per 3 mesi, alla terza volta me la tolgono per 1 anno e mi obbligano dopo a rifare la patente, sì. Lo chiamano idiota in test, cioè bisogna vedere se io fanno anche un esame psicologico se uno è veramente in grado di avere una patente o no. E poi prendi la patente a vita, naturalmente se ecco, esiste la patente a vita tolta in Germania? Sì, certo, certamente. Questa è una misura molto, molto controversa sulla quale si sta dibattendo, ma succede in quali casi? Basta un incidente, non so se io ubriaco in Germania, causa un incidente mortale, mi viene tolta a vita? No, dipende da come si è svolto l'incidente, se sono ubriaco, poi sono fuggito, se uccido qualcuno e fuggo dal luogo dell'incidente vado in galera per 5 anni, e qui 5 anni li fai fino all'ultimo giorno, non è come da noi che poi vieni mandato. È chiaro. E quindi uno ci pensa 10 volte prima di mettersi certo. Ubriaco a volante, anche perché tu parlavi dei controlli, certe volte il venerdì sera chiudono una strada e controllano tutte le macchine a tappeto. Per vedere se uno ha bevuto o no. No, ma è chiaro, la questione dei controlli secondo me è centrale. Io capisco e sento già, immagino, le proteste anche della polizia stradale a dire ma non abbiamo gli strumenti, non abbiamo gli uomini, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le risorse adeguate. Va bene, cioè invece bisognerebbe in uno stato normale investire lì e mettere i soldi lì perché sono tutte cose che poi ti ritornano negli anni. Roberto, noi vogliamo concludere, ma non ti ho fatto la domanda fondamentale, ma insomma la Germania come si è svegliata questa mattina dopo avere, come non so neanche che verbo utilizzare nei confronti del Brasile ieri, dopo avere, non lo so, i giornali oggi che raccontano, dopo avere triturato il Brasile. Naturalmente si sentono già campioni del mondo. Eccola là. Questa è la visione del pericolo tedesco, comunque qualcuno lo mette in guardia, questo diciamo se siamo troppo arroganti poi perderemo contro l'Olanda, contro l'Argentina. Quindi... chi lo sa, comunque vi siete svegliati, diciamo anche tu, ti sei svegliato con persone allegre, diciamo, attorno. Ah, qui sono tutti euforici e non vanno troppo veloci al volante perché sono troppo euforici. Assolutamente sì, la Germania ricordiamo ha battuto il Brasile 7-1, una roba che non si era mai vista in una semifinale dei mondiali. Grazie Roberto Giardina per essere stato con noi, grazie, ovviamente alla prossima. Io voglio salutare intanto, e parleremo di Calabria, il presidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Talarico, buongiorno presidente. Buongiorno. Eccoci qua, le chiedo un minuto di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico, vogliamo tornare sulla questione Calabria perché ieri qua a questi microfoni il ministro agli affari regionali Lanzetta ha detto ma com'è possibile che la giunta Scopelliti è caduta e il consiglio regionale rimane in carica. Eccoci alle 8:46 minuti. Allora, presidente Talarico, le faccio risentire quello che ieri il ministro Maria Carmela Lanzetta, ministro degli affari regionali, ci ha detto riguardo al fatto che pur caduta la giunta Scopelliti, il consiglio regionale della Calabria rimane in piedi e dal punto di vista della legge è tutto a norma. Sentiamola Lanzetta. la logica, il bisogno, la considerazione di quello che sta vivendo adesso la Calabria imporrebbe a tutti i consiglieri le dimissioni. Io invito fortemente tutti i consiglieri regionali alle dimissioni, perché i calabresi, a mio avviso, proprio in questo momento di grande sofferenza, hanno bisogno di un governo regionale autorevole nel pieno delle sue funzioni. Allora, Presidente Talarico, vi dimetterete? Ma guardi, anche le dimissioni non è che cambia i termini della questione, perché si voterebbe sempre a novembre. Noi abbiamo una legge regionale e uno statuto regionale che non è solo della Calabria ma di tutte le regioni d'Italia, che il Consiglio regionale rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti. Sì. Cioè non è come il sindaco che nel momento in cui si dimette si nomina un commissario e quindi decade sia la Giunta che il Consiglio. Tutti gli statuti delle nostre regioni prevedono questo. Questo è avvenuto in Basilicata, è avvenuto nel Lazio, quindi non è solo in Calabria. No, ma questo sì, dal punto di vista della legge anche il Ministro Lanzetta dice assolutamente così, ma dal punto di vista dell'opportunità politica non crede che caduta la Giunta si debba anche andare a far decadere il Consiglio regionale? Ma guardi, noi stiamo continuando a portare a termine una serie di cose importanti, per esempio la settimana scorsa abbiamo approvato un assestamento di bilancio di 130 milioni di euro da destinare alle famiglie, ai disoccupati, alle imprese calabresi. Mi sembra, voglio dire, che è un consiglio che produce, che ottiene dei risultati nell'ordinaria amministrazione. Dovremo approvare, per esempio, entro il 22 luglio i fondi comunitari che dovranno essere trasmessi alla Commissione europea. Quindi sono fatti che interessano le famiglie calabresi e interessano il territorio. Cioè non c'è questa sorta di invece attaccamento alla poltrona, come qualcuno ha fatto notare. Ma guardi, noi abbiamo un'aggressione mediatica quotidiana su questi argomenti. Sembra che una settimana in più e chissà che cosa cambia. Noi siamo pronti per votare a novembre. Penso che dopo le dimissioni del Presidente, essendo l'elezione diretta, non c'è dubbio che noi dobbiamo ritornare alle urne in modo tale che i calabresi possano esprimere sul nuovo governo. Però insomma fino a novembre la legge lo consente, starete in carica. E quindi non perdiamo tempo, nel senso no, che... ma questo senza dubbio. Però visto lei ha parlato di aggressione mediatica, mi lasci salutare un collega. Si tratta di Antonio Ricchio del Corriere della Calabria. Buongiorno Antonio e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ieri tra l'altro Sergio Rizzo sul Corriere della Sera ha raccontato che tu hai riferito sul Corriere della Calabria di che cosa? Una relazione dell'ispettore della Ragioneria Generale dello Stato Gaetano Mosella che ha fatto tutta una serie di analisi su quelle che sono le decisioni prese su incarichi, assegnazioni, soldi dalla Regione Calabria negli ultimi quanti governi? Nelle ultime due legislature, quella del centro-sinistra guidata da Gazzolo Iero e l'ultima del centro-destra guidata dal dimissionario Scopelliti. Ecco, l'aggettivo più usato a scrive Sergio Rizzo in questa relazione dell'ispettore della Ragioneria dello Stato è illegittimo oppure illegittimamente, come avverbio illegito, a ricorre quante volte questo illegittimo? Decine e decine di volte nelle 247 pagine della relazione. Diciamo che quello che viene fuori è un quadro davvero preoccupante, non c'è da stare sereni a vedere come è stata amministrata la cosa pubblica nel corso degli ultimi anni. Si parla di centinaia di assunzioni ritenute legittime dalla Ragioneria dello Stato, ma soprattutto queste legittimità riguardano i livelli apicali della pubblica amministrazione calabrese. Basti pensare che abbiamo il direttore generale della presidenza della giunta regionale che stava lì e che sta ancora tuttora lì senza averne i titoli e che sempre a leggere la relazione della Ragioneria di Stato ha percepito qualcosa come 735.000 euro in maniera illegittima nel corso degli ultimi 4 anni. Oppure abbiamo l'esempio dell'avvocatura regionale. abbiamo un direttore generale che lì non potrebbe stare, non fosse altro perché c'è non c'è una legge regionale che prevede questa figura. Cioè c'è un funzionario dello Stato che dice che ci sono numerose nomine, incarichi, stipendi dati da un ente pubblico, in questo caso la Regione Calabria, in maniera illegittima. Ma insomma sono accuse. Presidente Talarico, lei è a conoscenza di questa relazione della Ragioneria dello Stato e come risponde a queste accuse? Ma guardi, la Ragioneria dello Stato è stata diversi mesi sia in Consiglio sia in Giunta, ha evidenziato delle anomalie. Noi abbiamo 6 mesi di tempo per controdedurre, perché ci sono cose giuste che vengono individuate, cose completamente errate, nel quale noi ci costituiremo per esprimere quali sono le nostre controdeduzioni. Lo farà la Giunta, lo farà il Consiglio, lo farà la Giunta precedente, quindi guidata dal Presidente Loiero, lo farà il Consiglio precedente guidato dal Presidente Bova. Quindi sì, sono anomalie che posso dire il MEF non ha fatto solo per la Calabria. Ma su questo non c'è dubbio. In questo caso ci concentriamo sulla Calabria perché è venuta fuori questa notizia, ma sarebbe il racconto di un incredibile campionario di quello che una pubblica amministrazione non dovrebbe mai fare. Per esempio si racconta di 1184 dipendenti di troppo che sarebbero stipendiati dalla Regione Calabria. Guardi, da quando ci sono io non abbiamo fatto un concorso pubblico, quindi... Ah beh, magari sono situazioni pregresse, certo, una volta il dipendente pubblico, una volta che c'è, come dire, uno se lo tiene sul groppone, ecco. Chi arriva non è che può pagare poi il malgoverno di diversi anni della nostra regione. Ah, su questo non c'è dubbio. Però insomma lei dice risponderemo con le controdeduzioni a questa relazione della Ragioneria Generale. Sì, lo faremo in tempi brevi, gli uffici stanno studiando un po' una per una le diverse le situazioni per dare poi delle controdeduzioni, ecco, per smontare un po' tutto quello che il MEF ha individuato per la nostra regione. Ma mi può far capire come mai, secondo lei, il ministro Lanzetta vi invita alle dimissioni e invece voi dite no, in nome della legge, in forza della legge, noi possiamo stare qui e quindi stiamo qui? No, io sto solo dicendo che mi sembra il ministro Lanzetta poco informato sulle normative. Cioè, a me sembra che... No, le facciamo una questione di opportunità politica. Lei pensa che se noi ci rimettiamo si scioglie il Consiglio e si rivolta. Cioè, noi siamo già sciolti, nel senso che dopo le dimissioni del Presidente stiamo continuando in prorogato per fare le cose urgenti. Infatti ci sono una serie di provvedimenti legislativi che erano passati dalla Commissione e che noi non approviamo. Approviamo solo le cose fondamentali e urgenti. Io penso che sia un invito rivolto al suo partito, perché il Partito Democratico insomma è un partito importante anche nello scenario politico della nostra regione. Sì, invito che però mi sembra di capire fino a questo momento non viene accolto neanche dal Partito Democratico, almeno così. Antonio Ricchio, tu che segui anche la questione politica, perché sì, il ministro Lanzetta chiede le dimissioni dei consiglieri? Ma innanzitutto è un avviso ai compagni di partito del Partito Democratico, ai consiglieri regionali che sul punto sembrano un po' essere incerti, ma è un invito anche al presidente Talarico e soprattutto al presidente della giunta facente funzioni Stasi, che con la nuova legge elettorale ha il potere di indire le nuove elezioni. Ecco, sarebbe utile a questo punto che il presidente Talarico, se davvero ritiene che questa legislatura sia finita, si attivasse affinché il presidente facente funzioni della giunta regionale Antonella Stasi avviasse il più rapidamente possibile le procedure per favorire un rapido ritorno alle urne dei calabresi. Ma che non saranno a novembre, questo ho capito. Finora abbiamo registrato soltanto delle sterili dichiarazioni generiche, soprattutto di andare al voto a novembre. Sì. La sensazione è che ci sia una sorta di tacito avanti, accordo per arrivare alla prossima primavera. Non è chiaro, Talarico, si voterà a novembre oppure no? Questa è la domanda. Si voterà a novembre, perché non ci sono dubbi. Nel momento in cui si dimette il Presidente, noi abbiamo approvato una norma che entro 3 mesi il presidente facente funzione deve convocare le elezioni. Quindi voglio dire, dov'è il dubbio, o chissà quale melina o chissà quale trame di palazzo stiamo compiendo. Si voterà a novembre, questo è l'impegno sul quale vi devo fermare perché altrimenti sforo nel tempo con il giornale radio. Si voterà a novembre, staremo a vedere. Intanto vi ringrazio, Francesco Talarico, presidente del Consiglio regionale calabrese, e Antonio Ricchio del Corriere di Calabria. Ci fermiamo solo per il GR, ma rientriamo alle 9 e andiamo avanti fino alle 9:30. Parliamo di immigrazione, state con noi. 24 mattino. Questa è 24 mattino alle 9:08, andiamo avanti, ormai l'avete capito, fino alle 9:30, almeno fino al 25 di luglio, e vogliamo parlare di immigrazione, lo facciamo con un taglio e con un punto di vista particolare. Mi ha colpito ieri i dati che sono stati pubblicati dal Corriere della Sera riguardo alle rimesse degli immigrati. Cosa sono le rimesse? Sono i soldi che gli immigrati in Italia spediscono alle proprie famiglie in patria. Ebbene, sapete a quanto ammontano le rimesse? Sono 5,5 miliardi nel 2013, 5,5 miliardi di euro. Questo lo certifica Banca Italia. Voi pensate, ma chissà quale cifra alta. Beh, una cifra molto imponente certamente, ma pensate che la cifra delle rimesse del 2013 è la più bassa degli ultimi 7 anni. Segno che la crisi c'è anche lì, si vede anche nel lavoro degli immigrati e nei soldi che gli immigrati possono spedire a casa. Pensate che raccontava ieri il Corriere della Sera, a testa ogni immigrato ha mandato mediamente nel 2013 a casa in 12 mesi 1250 euro, il 25% in meno rispetto all'anno precedente, il 2012. Eppure su questo tema è un vecchio cavallo di battaglia della Lega anche in sede di Commissione Europea, e saluto Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Buongiorno Salvini. Buongiorno. Voi avete chiesto in passato, e credo lo facciate ancora, quello di la possibilità di introdurre una tassa sulle rimesse degli immigrati in patria. Perché vorreste una tassa su soldi che vengono guadagnati in maniera assolutamente legittima e attraverso canali altrettanto legittimi spediti in patria? Perché spesso non sono guadagnati legittimamente né spediti legittimamente. Faccio un esempio molto concreto per chi ci ascolta. Noi nell'autunno 2011, prima che arrivasse il governo Monti, avevamo inserito un'imposta di bollo aggiuntiva del 2% su questa marea di soldi solo per chi li spediva sprovvisto di codice fiscale matricola IMSS. E quindi evidentemente era irregolare, perché in Italia ci sono più di 7.000 negozi adibiti al money transfer. Qualunque italiano voglia andare in banca o da qualunque altra parte a fare un bonifico, a fare una spedizione di soldi, evidentemente deve avere la documentazione a posto. Non spedisce. C'è il cellulare, Salvini, dobbiamo richiamarla perché il cellulare va e viene, però insomma qualcosa già abbiamo capito, l'idea che molti di questi soldi non vengono guadagnati in maniera legittima e soprattutto anche trasferiti con questi money transfer che vanno un attimo controllati. Mi lascia salutare intanto, mentre la richiamiamo, Khalid Shaoukhi del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovata anche lei, onorevole Shaoukhi. Ha sentito insomma la proposta di Salvini, ora lo richiamiamo, dire questi soldi partiamo dalla questione della cifra. La colpisce i 5,5 miliardi, cioè una delle cifre più basse degli ultimi 7 anni di rimesse? Beh sì, era purtroppo prevedibile, insomma, il fatto che c'è la crisi economica, anche i lavoratori stranieri purtroppo molti sono rimasti a casa e quindi si tenta e tutti quanti risparmiare, quindi insomma è coerente con gli ultimi dati riguardo alla disoccupazione anche tra le file dei lavoratori stranieri. Quindi la cifra non la stupisce, il sintomo della crisi. Allora, visto che abbiamo recuperato la linea con Salvini c'è anche l'onorevole Shaoukhi, vuole finire la questione? Buona giornata. Sì, che diceva dei soldi illegali, insomma, in questi money transfer qual è il problema? No, noi avevamo semplicemente approvato, prima che il governo Monti cancellasse questa norma, che fosse aggiunta un'imposta del 2% per chi faceva questi versamenti senza avere una posizione fiscale regolare, quindi senza codice fiscale e matricola IMSS, in pratica da clandestino, con denaro spedito a casa guadagnato in nero. Quindi voi volete colpire, diciamo, quel tipo di denaro. Non sembra che però mettere una tassa su denaro eventualmente guadagnato illegittimamente sia un po' addirittura da parte dello Stato speculare su denaro? Guardi, lo Stato che specula, adesso c'è la lotteria vinci casa, quindi uno Stato che arriva a fare il gratta e vinci, vinci casa, vuol dire che sta sfruttando il fondo del barile, lo Stato che vende i superalcolici e le sigarette e si rifiuta ipocritamente di prendere in considerazione la tassazione della prostituzione, è uno Stato profondamente ipocrita. Quindi se c'è un centesimo di euro evaso da un commerciante italiano, gli arriva la finanza e multa il bambino che esce dal negozio senza lo scontrino del cono gelato, qua si parla di alcune centinaia di milioni di euro guadagnate evidentemente in nero, perché se qualcuno spedisce a casa sua soldi senza codice fiscale, matricola IMSS, quei soldi li ha guadagnati evidentemente abusivamente. Quindi vogliamo chiarire, voi volete tassare solo questi oppure mettere una tassa una tanto su tutte le rimesse? Cioè... No, questa era la proposta concreta approvata in Parlamento, emendamento Garavaglia, Vaccari, cancellato dal governo Monti. Mi spieghi perché il governo Monti ha tolto una tassazione su denaro che arrivava da guadagno scorretto. Per quanto mi riguarda, poi se siamo in un momento in cui bisogna chiedere un sacrificio a tutti, pensiamo, ieri sono usciti i dati sulle pensioni. Noi abbiamo quasi il 50% degli italiani, 43% degli italiani, molti magari ci stanno ascoltando, con una pensione inferiore ai 1000 euro al mese. Se sacrifici agli italiani vanno chiesti, domando anche a Sciauchi che avete come ospite, se è giusto che invece chi arriva domani mattina in barca a Lampedusa e fa domanda di asilo politico, è giusto che non abbia 1000 euro al mese, ma abbia garantito vitto e alloggio per 1200 euro al mese, senza aver contribuito per un giorno allo sviluppo di questo paese. Sciauchi, insomma, le domande sono sul tavolo, sulla questione sia delle rimesse e sia per quello che ha detto Salvini. Onorevole Sciauchi. Beh, è bizzarro, perché qui si tassano delle persone dando per scontato che provengono denari da lavoro illecito, quando il problema sarebbe semmai regolamentare questo sistema, e quindi se si dà la possibilità anche ai turisti oggi qui a Roma di versare per il money transfer senza particolari documenti, il problema è il sistema di transfer e il rapporto con le multinazionali che probabilmente i governi, anche i governi precedenti, avevano qualche problema che andrebbero regolamentati e non colpire i lavoratori stranieri. E uno Stato che appunto pensa in questo modo di tassarle non è perché pensa sia lavoro nero, perché vessa una parte per l'ennesima volta più debole, e in particolare la Lega Nord in questi anni ha prodotto una legislazione speciale per i lavoratori stranieri, e in questo modo ha cercato anche qui, rispetto al denaro guadagnato, di cercare di farci la cresta. Questo è quello che è avvenuto, perché è la categoria più debole, e non riconoscendo invece, loro dicono aiutiamoli a casa loro, e quale migliore modo per aiutarli a casa loro se non dargli la possibilità di contribuire ad aiutare le loro famiglie nei paesi di origine, come hanno fatto gli italiani all'estero. Quindi penso sia una falsa giustificazione quella di tassare i soldi guadagnati illecitamente, perché quello si combatte combattendo il lavoro nero, combattendo i caporali e mettendo delle regole più severe su queste multinazionali. Il governo, evidentemente, loro non hanno avuto il coraggio di stringere su queste multinazionali e si sono sfogati su le rimesse legittime delle famiglie. Cioè, lei dice si combatte alla fonte, Salvini, l'obiezione di Sciauchi è questa: si combatte alla fonte, vedete, contrastando il lavoro nero, l'illegalità, ospite, non i soldi che alla fine vengono prodotti. Ha la fobia della Lega: se la Lega dice che oggi piove, lui dice che c'è il sole, quindi è un problema suo. Dire, noi la regolamentazione sull'immigrazione l'abbiamo copiata dal resto d'Europa e del paese civile. Il reato di immigrazione c'è in questo momento, mentre stiamo parlando, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, ovunque. Quindi c'è qualcuno a sinistra che è più realista del re, che ritiene giusto, ripeto, non ho avuto risposta su questo, ritiene giusto garantire 40 euro al giorno a chi sbarca domani mattina a Pozzallo e fa domanda di asilo politico, e 10 euro al giorno a un disabile italiano. Secondo me è uno sconcio, secondo me è una vergogna, secondo me è profondamente ingiusto, non è accoglienza ma è suicidio. Vabbè, sulla questione ci siamo spostati sul tema appunto dell'accoglienza o suicidio, come dice Salvini, però sulla questione delle tasse, Salvini, perché effettivamente andare, cioè invece che contrastare alla fonte l'eventuale lavoro irregolare, andare a colpire La normativa, noi siamo stati così cattivi nei confronti degli immigrati che proprio per la prima volta, grazie alla Bossi-Fini, noi abbiamo sequestrato, facendo un esempio dei problemi della fonte, centinaia di appartamenti affittati in nero da italiani a immigrati irregolari. È chiaro che sull'immigrazione clandestina c'è chi specula, cioè c'è chi fa le ricchezze, e questo può essere italiano, straniero, finlandese, non mi interessa. Quindi abbiamo sequestrato negozi affittati in nero, appartamenti anche confiscati, affittati in nero, le battaglie contro le grandi banche, le grandi multinazionali, amici di Renzi, noi le stiamo facendo da qualche anno, probabilmente il collega parlamentare era ancora alle scuole elementari quando abbiamo cominciato a chiedere una tassazione superiore sulle banche, ad esempio l'IMU, che poi qualcuno da sinistra ha tolto. Detto questo, giustificare il lavoro nero degli stranieri perché poverini sono stranieri e massacrare il lavoro nero degli italiani perché sono dei furbetti mi sembra profondamente ipocrita. Sì, il lavoro nero è sbagliato comunque. Però Sciauchi dice, lei trova, non so se queste cifre che ci ha detto Salvini, insomma 40 euro al avente diritto allo status di rifugiato profugo e 10 euro al disabile italiano sono cifre che fanno urlare di rabbia Salvini, no? No, Salvini intanto non ha risposto alla mia domanda: perché non hanno messo delle regole rigide su tutti i money transfer, convocando le multinazionali, invece hanno preferito tassare gli immigrati? È inutile che, cioè, non è il problema del lavoro nero, il problema è che loro vogliono colpire le fasce più deboli, in questo caso gli immigrati fanno anche propaganda, si aggiunge a quella catena di propaganda che hanno fatto in questi anni dove sembra che gli immigrati rubino lavoro. E non riconoscono quello che fanno gli immigrati, perché i pomodori che mangia Salvini, le arance che mangia Salvini, i cocomeri che sta mangiando Salvini, le ciliegie che mangia Salvini, sono frutto del lavoro degli immigrati, non è lavoro nero. Le rimesse si fanno attraverso il sistema dei money transfer, sì, dove loro non hanno voluto regolamentarle, quindi non è il fatto che non si vuole colpire il lavoro nero, il fatto che loro dovevano tassare e dovevano mettere delle regole su queste agenzie, hanno preferito invece colpire la parte ancora più debole. Su invece il tema dei rifugiati, e di nuovo siamo alle bugie, i soldi che vengono dati ai rifugiati secondo un obbligo internazionale, l'articolo 10 della nostra, sì, Costituzione, se vuole Salvini lo può cambiare, non ce la farà per fortuna perché abbiamo un sistema democratico che va al di là della sua vergognosa propaganda di questi mesi, non è la fobia della Lega, è il fatto che voi avete fatto una campagna vergognosa associando gli rifugiati ai clandestini, associando gli rifugiati alle malattie. Ma la questione è vero che c'è questa disparità di soldi? Quei soldi vanno agli enti gestori, vanno alle prefetture che pagano gli alberghi anche del suo nord, pagano le cooperative, le associazioni, agli immigrati vanno in tasca 2,50 euro al giorno, questa è la verità. Con quei soldi le cooperative, gli enti gestori, le prefetture gestiscono pagano la situazione, danno da mangiare a queste persone, no, però la questione, non è che sì, li danno casse. No, non è chiaro, non è che finiscono, Salvini, la questione non è che finiscono nelle tasche, ma finiscono per gestire la situazione profughi. E vabbè, però la mettiamo sulla questione di cifre, Salvini, non lo so. Sì. Di 30, 50, 70 anni, che 1200 euro al mese garantiti dallo Stato per stare in albergo a non fare una mazza, non li vedrà mai nella vita. Non è giusto. Non è giusto che ci sia gente che adesso sta ascoltando Radio 24, essendo sbarcata settimana scorsa, avendo fatto domanda di asilo politico, che magari verrà rifiutata, perché nell'80% dei casi viene rifiutata, che per qualche mese sta in albergo. Ho capito, ma voglio dire, con questo principio che fare? O si sa l'origine, se uno ha il diritto, esatto, cioè, oppure, però non è che si può... Si interviene in Nord Africa, si seleziona in Nord Africa chi ha diritto e chi non ha diritto, senza mantenere per anni migliaia di persone che sono qua abusivamente senza averne titolo. Va bene, è chiaro che insomma il tema dell'immigrazione è molto molto complesso, però sulla questione che diceva Sciauchi, cosa risponde? Cioè a dire, perché non si fa una regolamentazione di questi money transfer in modo che sia tutto regolare e così? Ma se fanno una proposta di legge, visto che è 3 anni che sono al governo come PD, gliela firmo domani mattina. Figurarsi, abbiamo provato a mettere l'IMU sugli immobili delle banche e siamo stati respinti con perdite. Figurati se io voglio fare un favore ai money transfer, alle multinazionali o alle grandi banche, visto che sono da 3 anni al governo, fanno una proposta domani mattina, mi impegno a firmargliela. Detto questo, che ci sia un pregiudizio di fondo per cui le ciliegie e i cocomeri le raccolgono gli immigrati. Le raccolgono gli immigrati se sono sfruttati a 2 euro all'ora in nero. Io sono sicuro che ci stanno ascoltando migliaia di ragazzi che andrebbero a fare la vendemmia, andrebbero a raccogliere ciliegie e cocomeri se pagati normalmente, non 2 euro all'ora in nero, evidentemente. Questo sì. Sciauchi, fatemi sentire un ascoltatore che ci chiama da Milano, dalla provincia di Milano, per la verità. Salvatore, buongiorno. Salvatore. No, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo Praticamente parola Salvini, io sono uno che ho mia moglie che quindi era una rifugiata politica, sì. Ora l'ho sposata, quindi non è più regolarmente in Italia, e quindi dico a signor Salvini che qua si parla di questi 40 euro che vanno dati a questi immigrati, questi, sì, tutti questi soldi. Mia moglie non ha preso mai un centesimo. Non ha avuto mai un centesimo. No, i soldi vanno, diciamo, per la gestione, cioè dice non è che vanno magari nelle tasche nel caso di sua moglie o delle persone, ma vanno per la gestione della situazione degli aventi diritto a essere profughi. E Salvatore, vabbè, voleva dire questo, che non ha preso neanche un centesimo. No, volevo dire anche a signor Salvini che il discorso del transfer, sono d'accordo con il signore che parlava prima, che non ricordo il nome, su cui va regolarizzato dalle agenzie. Sì. Non deve essere sempre a discapito del povero lavoratore che è costretto a lavorare o a nero o con una miseria di 2 euro all'ora o 10 euro al giorno. E ci si mette pure la tassa, lei dice, ci si mette pure la tassa. Va bene, su questo mi sembra che sia abbastanza chiara la sua posizione. Ernesto dalla provincia di Roma, buongiorno Ernesto. Buongiorno, volevo fare i complimenti a Salvini e volevo dire che la Lega, se si presenterà anche nel Lazio, sì, specialmente nel comune di Guidonia Monteceglio, dove abbiamo 12.000 extracomunitari rumeni che hanno bruciato tutto il lavoro e la costruzione sindacale che è stata fatta durante i decenni, abbiamo perso tutti i diritti per colpa di questi immigrati. Io non sono razzista, premetto, però hanno bruciato tutto, perché lavorano in concorrenza sleale, si buttano a fare tutto, non sono capaci a fare nulla e all'ultimo i risultati sono quelli che... Insomma, lei dice Ernesto della provincia di Roma, Salvini, se andate a Guidonia la questione, però Khalid Shawki e Salvini, siamo in conclusione. Shawki vuole rispondere anche all'ascoltatore Ernesto della provincia di Roma, che insomma, mi sembra tutto che fuorché leghista nell'animo, ma dice lo sono diventato, mi pare di capire, vista la situazione di rumeni, in questo caso ci riferisce che ci hanno portato via il lavoro. Ma è chiaro che partiti come quelli della Lega anche in Europa campano sulle disgrazie altrui, purtroppo, perché il fatto di inneggiare la guerra tra poveri, non riconoscere che c'è una crisi economica e quindi il regolamentare il mercato, ma il fatto che l'immigrazione è arrivata in Italia non perché per turismo, perché negli anni 90 noi abbiamo aperto le porte perché avevamo bisogno di un certo tipo di manodopera che gli italiani non volevano più fare. E quindi non è la risposta quella di creare una guerra tra immigrati e italiani. È quella di fare maggiori controlli, quella di combattere gli sfruttatori che molte volte sono imprenditori italiani. Dire che gli immigrati non sanno fare niente è una bugia, perché le aziende edili oggi che stanno costruendo anche Expo, molte sono di origine straniera, lavorano bene, vincono i bandi, e gli immigrati non sono quelli che dipinge Salvini, ma sono tante infermiere, tanti medici, tanti professionisti che piano piano stanno anche aiutando la nostra società. Ah no, ma su questo punto di vista è chiaro che come al solito una fotografia è una cosa molto variegata. Salvini, non so se volete andare a Guidonia raccogliendo l'invito degli ascoltatori. Ci andrò sicuramente, anche perché non ho il paraocchi dell'altro ospite, non mi interessa prendere 2 voti in più o in meno. Per me gli esseri umani sono tutti uguali a prescindere dal colore della pelle. Io però voglio, da politico, che siano messi tutti nelle stesse condizioni per competere nella stessa maniera. Ad oggi, a normativa vigente, purtroppo, spesso e volentieri, è agevolato il cittadino straniero che lavora in nero, che ha tanti figli, quindi per le case popolari, per il contributo profitto, per la graduatoria degli asili nido, per le assunzioni. Spesso e volentieri non c'è questa parità di diritti a parità di valore fra italiano e straniero, e assurdamente lo straniero è avvantaggiato. Io voglio semplicemente riportare tutti sullo stesso piano. Shawki invece privilegia solo gli altri, a me spiace, perché condanna chi in questo paese ci vive da 50, 60, 70 anni, di immigrati che fanno bene il loro lavoro, fortunatamente è pieno. Questo senza dubbio. Io vi ringrazio e vi saluto. Salvini, vabbè, ha visto che la sua Germania tanto amica ha fatto un bello scherzetto. Io tifo Olanda. Io tifo Olanda. Vabbè, io tifo Olanda. Tifo io tifo Milan, io tifo Milan e questo tifo l'Olanda questo. Nel ricordo di Gullit Van Basten e Rijkaard, quindi insomma, secondo me vince l'Olanda. Vabbè, però Olanda. Intanto la Germania, quella del rigore, quella del senza rigore, ne ha fatti sette, ne ha fatti sette al Brasile. Ecco, è il momento della Germania, dovete rassegnarvi, cari amici della Lega. Vabbè. Gli lascio vincere il mondiale se mi lasciano uscire dall'Euro. Ecco, uno scambio alla pari, uno scambio alla pari. Si guadagna l'Italia sicuramente. Va bene, grazie a Matteo Salvini, grazie a Khalid Shaukhi del Partito Democratico, Salvini invece segretario della Lega Nord ovviamente, per essere stati con noi. Ci fermiamo anche oggi per 24 Mattino con Miriam Lucchetti, Anita Panizza, Elisabetta Fusconi in redazione e con Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è ovviamente a domani, seguitemi anche su Twitter, do sempre il mio profilo Alino Milan, e a domani alle 6:30 puntuali. 24 Mattino.